Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane, di Rosita Celentano e Angelo Vaida. Ed eccoci su Radio 24. Come buongiorno. Ogni domenica siamo qui a raccontarvi questo fantastico mondo dei cani, no? Sì. Tra l'altro riprendiamo dal nostro articolo di Focus che dice che con... Sembra un po' Angelo... Apposta per questo. No, come si chiamava quello di Quark? Qui è Piero Angelo. No, dicevamo articolo di Focus. Scommetti che ti convinco, cioè esatto. La forza non serve per ottenere ragione. Assolutamente no, però bisogna avere altre armi. Con le buone si ottiene tutto. Con le buone si ottiene tutto. Assolutamente sì. Ma non solo con le buone, ci sono 10 punti che ci suggeriscono, di cui noi stiamo parlando. Ogni domenica diamo un punto. Il primo punto era ascoltare, il secondo punto era sincronizzarsi. E adesso c'è identificate le radici. Quindi da dove provengono le idee dell'altro? Perché se tu capisci dove provengono le altre opinioni, riesci, come si dice, a entrare più in empatia con l'altro e quindi cercare di convincerlo che forse sta dicendo delle bagianate. Esatto. Quindi non sono, perché le altre opinioni non sono neutre, ma dicono chi siamo e a quale gruppo apparteniamo, sia politico che religioso. Insomma, è fondamentale capire, e addirittura spiega l'articolo che anche gli scienziati le scoperte le fanno step by step, perché a volte restano inchiodati sulla loro idea. Non è facile, sì. Anche se chi viene dopo... Nella scienza avviene proprio un salto di paradigma, si dice di solito. Ecco, cioè vedi? Uno raccoglie delle cose che sono in contrasto con... Ah, grazie, vedi, senti... E uno a volte raccoglie delle cose che sono in contrasto con le proprie idee e quindi alla fine cambia totalmente paradigma, saltando ad una nuova visione, no? Sì, cioè... sta dicendo delle cose reali, facendo l'imitazione di Piero Angela. Ma io li adoro, sia lui che il figlio. No, lo so. Sono cresciuto anch'io. Quindi bisogna andare alle radici, no? Dice questo articolo di Focus. Perché ti viene da ridere? Che è una cosa così? mi viene sonno con questa musica. Vabbè, vadi. No, invece parliamo di cane, no? Visto che questo è il mondo dalla prospettiva del cane. Che cosa... Esatto, difatti era quello il punto. Noi parliamo di questo articolo anche per trovare il parallelo con il rapporto col cane. Parallelo. Cioè ci sono delle cose che ci rendono simili agli animali. Allora, quando uno ha a che fare con un cane, come fa? Cioè cosa vuol dire identificare le radici? Mm-hmm. Significa due cose principalmente. Uno, ricordarsi che le razze hanno delle tendenze comportamentali. Cioè se tu prendi un pointer, hai presente quel cane da caccia che si mette a puntare? Sì. Di solito se ne mettono almeno due, perché incrociandosi il cacciatore verifica, cioè riesce a identificare per bene dove è la preda. Se tu prendi però un pastore tedesco, non te lo farà mai quel lavoro di punta in quel modo. Quindi le razze hanno delle tendenze comportamentali che noi esseri umani abbiamo selezionato, no? Abbiamo fatto una pressione selettiva molto forte. E questa è la prima cosa, quindi devo chiedermi da dove proviene questo comportamento, no? Quando voglio farlo cambiare, perché andare a insegnare ad un cane territoriale a non esserlo, andare ad insegnare ad un cane da caccia a non far la caccia, è molto difficile, capito? E devo forse anche chiedermi se non sto andando a snaturare piuttosto a non soddisfare dei bisogni. Quindi per esempio il cane da caccia, piuttosto che andare a caccia, se uno a caccia non ci vuole andare, può tranquillamente fare ricerca. I cani da caccia sono ottimi a fare ricerca. Io voglio ricordare, per esempio, che negli aeroporti degli Stati Uniti, se uno arriva, trova dei beagle liberi. Ah sì? Sai, il beagle è un cane da caccia, un grandissimo finto. Sì. Sono cani simpatici che a un certo punto si siedono sulle valigie o stanno accanto. Che cosa vuol dire? Dopo un po' tu dici, ah, che bello questo cane. Dopo un po' arriva l'addetto. Chili di marijuana e ti dice, no, sono addetti all'identificazione di alimenti, perché negli Stati Uniti è proibito introdurre alimenti. E quei beagle là segnalano agli addetti ai lavori le valigie che contengono alimenti. Pensa a te. Per quello si dice in Lombardia, ma non fare il beagle. ha fatto la battuta. Vabbè, comunque passiamo a... è interessante, a parte di scherzi, è interessantissimo, perché di base anche noi da razza a razza abbiamo delle particolarità che altre razza. Sì. Cioè? Anche noi abbiamo la differenza di razza. Di razza, cioè sei razzista, stai dicendo praticamente. Allora spieghiamoci, perché sennò ma figo, io sono razzista, sarebbe una contraddizione. L'ho detta forse male, volevo dire ogni popolo ha come si dice? Delle caratteristiche. Delle caratteristiche, ecco, esatto. Soprattutto culturali. Esatto. Ecco, cioè quindi... Ma scusami, ma quindi noi, per esempio, come si fa? Allora, fra i cani si dice... Questa è una razza e quest'altra una razza. E noi com'è che si dice che mi sfugge? Anche noi abbiamo razze diverse. Allora, no? Vedi, avevo detto giusto. Sì, però la cosa che volevo dire io è non ci sono differenze di valore tra le razze. No, è vero che gli etiopi kenioti sono bravissimi nella corsa, esatto, per esempio. Dire, oppure hanno il ritmo nel sangue. Oppure in Islanda ci sono gli uomini più forti del mondo. Però ci sono poi delle differenze culturali che sono date da delle convinzioni. Noi italiani cosa siamo più forti del mondo? Ah, noi siamo bravissimi ad arrangiarci. Cioè noi siamo quelli che dicono, vabbè, guarda, non ti preoccupa in qualche modo se fa... Certo, cioè, che da una parte è un vantaggio, da un'altra è una furbata anche, che poi ci ritorce contro. Noi siamo pieni di contraddizioni, pieni di colori, come dice Pino Daniele nella sua canzone, Napoli è mille colori, ma anche l'Italia è un po' è mille colori, quindi abbiamo delle grandissime invenzioni, guarda, per esempio, o le macchine, no? Abbiamo Leonardo, il Rinascimento, abbiamo un sacco di cose in Italia, Benigni, Docet, no? Esatto. Su YouTube, però abbiamo anche tante cose che non funzionano, no? Quindi, ahimè, sì, che più, insomma, più oggi che una volta. Detto ciò, anche i cani hanno delle convinzioni, quindi le radici sono identificare le convinzioni dei cani. Cioè una carezza, per esempio, data ad un cane avrà per uno l'effetto che ti salta addosso facendoti le feste, e per un altro invece avrà un'erezione di timidezza. Non sono le tue intenzioni che contano, certo, ma il risultato che ottieni. Quindi, la regola d'oro per la comunicazione è: il significato della tua comunicazione è dato dal risultato che ottieni. Se tu fai un passo avanti e quel cane ti ringhia, devi fare un passo indietro. Se fai un passo avanti e quel cane si allontana, devi fare un passo indietro. Mettersi sempre guardare il mondo dalla prospettiva del cane, ma in parte anche come mettersi nei panni dell'altro per capirlo in qualunque situazione, sì, nelle relazioni fra genitori e figli, fra amici, sul lavoro, sempre. Quindi vale la stessa identica regola. Quindi ci sono delle differenze, abbiamo detto, però queste differenze sono ci servono per arricchire le cose, per arricchire noi stessi, non sono differenze di valore, ok? Tu, a proposito di differenze, mi ricordo che io ho letto un paio di libri. Fantastici, due libri, esatto, esattamente, che volevo consigliare, che tu dirai che cosa c'entra, invece c'entra. Sono due libri di Luan Brinzedin, spero di dirlo nel modo giusto, edito Rizzoli, che ha scritto Il cervello dei maschi e Il cervello delle donne. Cioè uno è Il cervello dei maschi, un libro, sì. Poi l'altro libro è Il cervello delle donne. Cioè non contento. Fatalità, scritti tutti e due da una donna. Ah, da una donna? Certo. Allora, voglio proprio vedere che cosa che dice. E invece io consiglio di leggerli, perché veramente si parte da quando siamo proprio piccini, soprattutto Il cervello dei maschi. A me divertiva capire, lei analizza proprio i bambini e le bambine, proprio come le attitudini diverse che abbiamo. È molto molto interessante. Cioè, ci sono delle differenze di genere anche qua, ricordiamolo, perché io sono un appassionato delle differenze tra uomo e donna, ma non ritengo che la donna o l'uomo siano superiori o inferiori. No, non c'è superiore o inferiore. In realtà la donna forse è un po' superiore. Noi abbiamo una sensibilità, noi siamo migliori oggettivamente. Insomma, vedi, non siamo superiori. C'è una differenza effettivamente. È il nostro regista. Forse ci sta richiamando. Che... All'ordine. No, su quello che ho detto io faceva l'ululato. Ah, ecco. No, leggeteli perché sono veramente interessanti. Il cervello dei maschi è uno, e Il cervello delle donne è l'altro. Io ho dato una sfogliata a questi due libri, sono molto belli e tracciano le radici biologiche, cioè di anatomia del cervello, cioè come è strutturato il cervello, no? Di uno, non anatomia, diciamo che come ci sono delle differenze proprio nell'organo, sì, nella formazione. Soprattutto per capire anche più i figli, quando uno ha dei figli. Un figlio, sì, maschio e una figlia mia. Però ti dico la battuta che mi facevano i miei amici quando sapevano che leggevo questo libro. Sentiamo. Mi dicevano, soprattutto le donne, però anche qualche uomo fa: beh, ma il libro Il cervello dei maschi sono solo due pagine. mi è piaciuta. Peter, vabbè, è piaciuta molto. Scrivere un libro così, eh? Esatto. E con questo vi diamo un attimo di pausa e ci troviamo fra subito dopo, certo. Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta... Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Vuoi che faccio un puff? Allora devo aprirla io la porta. Hai riconosciuto Rosita? Sì, è un film fantastico con un attore meraviglioso, un regista capolavoro, però allora, purtroppo parliamo di un argomento veramente drammatico. Perfetto, allora, maltrattamento sì. È maltrattamento sempre, maltrattamento nei confronti delle persone, nei confronti dell'animale, però c'è una cosa interessante, c'è un link tra queste due cose, perché chi dice, vabbè, ma chi se ne frega degli animali, maltrattamento degli animali, ma pensiamo a noi esseri umani, sì. Ignora che il maltrattamento sugli animali è predittivo di maltrattamento sulle persone, è stato scientificamente provato, abbiamo, mi sembra, in linea anche una persona competente. Abbiamo in linea il sovrintendente capo del Corpo Forestale dello Stato, responsabile nucleo investigativo per i reati in danno agli animali, Rossano Tozzi, pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno Rossano. Buongiorno. Benvenuto. Buongiorno. Allora, siamo rimasti molto colpiti da questo articolo che lega proprio il legame netto fra crudeltà sugli animali e violenza sulle persone. Sì, allora come Corpo Forestale, come NIRDA e Associazione Linkitalia abbiamo investigato in questo senso e abbiamo trovato appunto questo collegamento che noi denominiamo link tra i reati che vengono commessi a danno degli animali e i reati che poi possono sfociare in reati contro la persona. Ecco, e quindi so che ci sono diversi settori da questo punto di vista, violenza sul web, criminalità organizzata che utilizza gli animali, violenza domestica, insomma ci sono diversi punti. Tra l'altro vedo anche che c'è un profilo proprio del maltrattatore che sarebbe nel 95% dei casi uomo e il 19% di questi casi sarebbero poi bambini e adolescenti a cui dobbiamo stare attenzione. Sì, allora per quanto riguarda il panorama in cui ci si può imbattere i reati contro gli animali, purtroppo sia tramite web sia la vita quotidiana abbiamo moltissimi esempi in cui è facile incontrarsi con reati di maltrattamento. Parliamo del web, purtroppo navigando sui social network è facile individuare dei veri e propri filmati dove gli animali vengono maltrattati. Va da sé che è possibile anche semplicemente girando per le nostre città assistere a un maltrattamento, a un'uccisione di un animale. In questo caso è obbligo anche morale per chi assiste di avvisare le forze dell'ordine. Perché la legge italiana, grazie a Dio, tutela gli animali, cioè è un reato maltrattare un animale. Quindi chi vede per la gente che ci ascolta, magari che vuole sapere, che spesso io vedo sui social che chiedono come fare, come non fare, se uno trova sui social dei filmati particolarmente crudeli deve chiamare chi? La polizia, allora, postale? Va assolutamente avvisato, sì, un organo di polizia competente nel settore. Facciamo un esempio tipico, si naviga su internet e si assiste a questo filmato dove vengono maltrattati gli animali. La polizia postale è sicuramente un organo di primo ordine per addivenire a chi ha messo a rete questo tipo di... Quindi subito segnalazione alla polizia postale. Come si fa la segnalazione alla polizia postale? C'è un sito... Esatto, c'è un sito diretto al quale appoggiarsi, dove si danno le generalità della persona che fa la segnalazione e l'indirizzo del filmato che è stato visionato. Mentre se invece uno lo vede per strada o che il proprio cane lo maltratta, lo strattona, lo prende a calci, mi è capitato una volta in via Manzoni. Sì, esatto, grandi problemi. Tutti gli organi di polizia giudiziaria hanno l'obbligo di intervento, quindi chi viene interessato dal cittadino deve mettere in atto tutte le procedure per informare debitamente l'autorità giudiziaria trattandosi di reato. La segnalazione può essere fatta sicuramente al Corpo Forestale ma anche agli altri organi di polizia. Io leggo qui: in ambito domestico il maltrattamento e l'uccisione di animali da parte di adulti sono scientificamente riconosciuti come indicatori di potenziale violenza su donne e minori e possono sfociare in atti persecutori ed intimidatori? Assolutamente sì, consideriamo che oggi una famiglia in cui la donna subisce violenze all'interno della famiglia, può esserci anche un animale. La persona che commette della violenza nei confronti della donna spesso li commette anche nei confronti dell'animale e utilizza l'animale per tenere la vittima, in questo caso moglie ma vittima anche animale, sotto la propria perfidia. Quindi la donna subisce angherie anche di paura nell'abbandonare il tetto domestico, perché all'interno della casa rimarrebbe il suo animale. E quindi subisce una sorta di violenza doppia. Ma Rossano, qual è la missione? Cioè, cos'è che si può fare per migliorare questa condizione? Cioè, di che cosa c'è bisogno? Che cosa possiamo fare? Allora, lavorando come Corpo Forestale, come NIRDA, e lavorando come associazione Link Italia, abbiamo capito che c'è un grosso gap, perché mentre oggi sono presenti delle strutture protette per le persone che vengono ad essere oggetto di maltrattamenti in famiglia, non esistono delle strutture protette per gli animali della famiglia. Certo. Quindi una delle nostre mission sarebbe quella di realizzare delle strutture, ecco, come il telefono azzurro, come il telefono rosa, dove possono essere allocati gli animali, perché la persona che subisce questi maltrattamenti, abbiamo avuto grosse situazioni molto spinose in cui ha rifiutato di abbandonare il tetto domestico per non lasciare il proprio animale alle angherie del marito. Quindi raggiungiamo all'assurdo che è possibile spostare la persona che però rifiuta l'allontanamento per non lasciare appunto gli animali in balia della cucina. Senta, c'è un'altra cosa che mi ha colpito particolarmente. Noi sappiamo che noi italiani in particolar modo purtroppo abbiamo questa piaga della criminalità organizzata, camorra, mafia, eccetera eccetera, e so che oltre a fare i loro bei danni a livello economico, politico, sociale e via dicendo, adesso scopro fanno anche dei danni agli animali. Mi racconta qualcosa da questo punto di vista? Diciamo che tutte le organizzazioni, parlando di famiglie mafiose, hanno nella loro metodica di arruolamento dei minori un transito che vede coinvolti gli animali. In questo senso, per esempio, il minore, il bambino, viene reso oggetto di un dono, e un dono che è un cucciolo di cane. Questo cucciolo di cane viene lasciato per un anno, un po' di tempo, al bimbo. Dopodiché il ragazzo che deve essere affiliato alla cosca viene messo alla prova, viene regalata a questo ragazzo un'arma e viene fatto a utilizzare, quindi si vede la sua potenzialità di fuoco, e poi viene chiesto al ragazzo di sparare al proprio cane, quello che gli è stato regalato l'anno prima. Questo per imparare a formare le nuove leve della criminalità. Comunque di educazione. Grazie, camorristi, mafiosi, siete veramente dei grandi. Grazie ci vuole. No, ma sembra veramente. A me sembra assurdo che esistano ancora queste cose. Dovrebbero solamente far parte di una finzione cinematografica. Oramai vengono ripresi dai film, ma purtroppo. Sì, insomma, parlano tanto di onore, ma questi non hanno le palle di vivere come la gente normale che si dedica al proprio paese, alla propria comunità. Questo non è onore, questo è disonore, così come anche quei cretini che vanno sul web a vedersi i video di violenza sugli animali non capiscono che arricchiscono i portafogli di chi quelle cose le mette apposta lì per guadagnare, oppure i video di sesso con animali, perché è anche una notizia recente di queste ville fra Milano e Roma. Sì, c'è la zoografia, uno degli ambiti in cui noi lavoriamo. Allora, grazie Rossano Tozzi, grazie, è stato gentilissimo. E vediamo di fare qualcosa per attivare un telefono speciale, un numero di telefono per l'aiuto agli animali. Infatti. Voi agli ascoltatori da dire. Siamo a disposizione per qualunque cosa. Altrettanto. Grazie, arrivederci. Arrivederci voi. Sto male, voglio dire, dopo queste notizie. Abbiamo al telefono una psicologa che ci dà una mano anche a capire abbiamo come al telefono questi una meccanismi. Psicologa, psicoterapeuta e direttore scientifico dell'Istituto Hoffman, Daniela Uslenghi. Buongiorno a voi. Fra l'altro, ciao. Io vi apro, vi chiudo la parentesi, io e Daniela siamo praticamente oramai amiche, parenti, cugine. Addirittura, grazie. Ci conosciamo, incominciamo a conoscerci da un po' di anni, veramente. Sì, infatti. Senti, Daniela, non so se sei riuscita a sentire quello di cui parlavamo con il sovrintendente capo del Corpo della Forestale. Sei riuscita a sentire qualcosa? Sì, okay. L'ultima parte sì. Ok, allora, siccome adesso dobbiamo dare un attimo un break, e subito dopo facciamo la chiacchiera con te inerente a quell'argomento. Benissimo, andiamo subito. Sì. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Eccoci di nuovo qui, abbiamo parlato, stiamo parlando del collegamento. Del collegamento che c'è, ahimè, fra la crudeltà verso un animale e quella che c'è verso le persone. Sì. Grazie che mi aiuti a parlare. Oggi ti aiuto, oggi, veramente dislessia. Sì, mi mancano dei vocaboli parecchi. Allora, quindi abbiamo con noi una psicologa, psicoterapeuta, mi sembra. Sì, è direttore scientifico dell'Istituto Hoffman, Daniela Uslenghi, con cui abbiamo già ci siamo già sentite prima della break. Daniela? Esatto, sono qua, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, ci sono delle cose che abbiamo appreso da questo articolo pubblicato su All for Animals, no? Che riguarda questo nuovo progetto del Corpo Forestale dello Stato, sì. Ammirevole, bellissimo, meno male che i nostri soldi, vedi, a volte finiscono per fare belle cose. E allora, ci sono delle piccole notizie che riguardano proprio la psiche, no? di una persona o di un bambino o di un adolescente, che volevo affrontare con te. Uno è che le persone che in età adulta sono crudeli nei confronti degli animali, ecco, questa loro crudeltà è un indicatore di pericolosità sociale. È così, anche perché di fronte a un'aggressività adulta rispetto a un animale, se si andasse indietro nell'anamnesi della persona, troveremmo dell'aggressività anche precoce, quindi sì, come bambini e come adolescenti. Che hanno subito molto spesso e che anche sono stati indotti a fare. Ah, ecco. E quindi, se noi conosciamo una persona che è crudele nei confronti degli animali, come ci dobbiamo porre? Ma probabilmente questo ha bisogno di una terapia. Direi di sì, e comunque poi c'è tutta una differenziazione. La crudeltà verso l'animale ha tante sfumature, quindi possiamo vedere la persona che magari teme l'animale, quindi senza essere cattivo davvero è crudele verso l'animale, fino al criminale. No, queste persone normalmente hanno dei forti disagi psicologici. Quindi non è una leggenda metropolitana il fatto che se io conosco e vedo qualcuno che ha un atteggiamento sadico verso gli animali, devo temere proprio che ce l'abbia indistintamente anche verso un figlio, un fratello, un amico, una moglie, un marito. Almeno in potenziale sì, perché non è che noi siamo spezzati. Se una persona può fare così del male o essere così sadico con un essere vivente, o è scisso, è completamente schizofrenico, sì, non del tipo che con gli animali lo fa e con gli esseri umani no, altrimenti fa parte proprio della strutturazione caratteriale molto aggressiva che viene fuori forse più facilmente con gli animali perché non possono rispondere, ma che in potenza vanno anche verso l'essere umano. E poi c'è una cosa che mi ha colpito particolarmente, no? Io spesso nei miei corsi dico: per favore, state attenti a come trattate gli animali, ma non soltanto come violenza o crudeltà. Cioè, basta soltanto avere degli schemi emotivi di impazienza, rabbia, esatto, o cose del genere. Se tu queste cose da adulto le fai di fronte ad un bambino, lo condizioni ad assumere alcuni di questi schemi, no? Cioè, è possibile che il bambino li assorba. Assolutamente sì, il bambino assorbe tutto, è responsabilità dell'adulto come il bambino cresce rispetto a se stesso, ma anche rispetto alla società e al mondo animale. Il bambino imita. Certo. Ma quindi, allora, come diceva Rousseau, se non ricordo male, noi non nasciamo buoni o cattivi, nasciamo tutti normali, e poi è la società o chi c'è vicino, le influenze di chi è vicino che ti influenzano in un indirizzo piuttosto che in un altro? Io sono concorde con questo, non faccio questo lavoro. Esatto. Assolutamente sì, si è visto, ci sono tante ricerche che hanno mostrato come un bambino messo, magari che portava degli istinti un po' più aggressivi, messo in un ambiente, fatto crescere in un ambiente calmo, non lo porta avanti come istinto. Per cui assolutamente l'ambiente, così mettiamola, batte la genetica, certo, questo in dubbio. E lo si vede perché anche, per esempio, sai, la pet therapy ormai esatto, è molto sviluppata. Allora si è visto quanto proprio l'animale che ha questa indole, cioè è innocente, non è corrotto come l'essere umano, non è così complesso, aiuti molto spesso persone che hanno un disturbo psichico a incominciare a entrare in relazione con l'altro da sé. Verissimo. Per cui è un mondo veramente importantissimo. Senti Daniela, grazie mille. Io volevo ricordarvi l'Istituto Hoffman, che è un istituto che io ho scoperto conoscendo Daniela. È questa settimana dove uno si dedica a se stesso, stacca, molla il cellulare, chiave della macchina, sta lì e si fa si riconnette con il proprio io, che credo che sia una settimana che ogni essere umano si dovrebbe dedicare nell'arco di una vita. Ti rimetti, mamma mia, sì, ti resetta, anche perché si impara anche proprio a guardare il proprio carattere, perché noi molto spesso non è una questione di bontà o cattiveria, è che a volte le persone proprio non riescono a usarsi bene e il carattere prende il sopravvento. Quindi è anche un bisogno sociale che ognuno di noi si prenda responsabilità per le sue azioni, e lo si vede tantissimo nell'argomento bellissimo che voi affrontate. Grazie. No, si parte da lì. Bene, oggi iscrizione di Rosita. Io volevo dire la stessa roba, volevo dire ti mando Angelo. Ecco, perfetto. Senti Daniela, grazie. In privato. Esatto. Ma figuratevi. Un abbraccione, bravissimi. grazie, a presto. A presto e buona giornata a tutti. Grazie. Salve. Daniela. E oggi un uomo, un mito, io adoro, perché cioè, mi fa molto divertire, lo stimo tanto e mi piace molto come attore, un grande comico, Giorgio Panariello. Ciao ragazzi, buongiorno. Oh, hai visto che sigla che ti abbiamo sparato? Accidenti, che sigla ragazzi, vi saluta anche Martina, non so se la sentite in sottofondo. Sentiamo. La canina Martina che sta qua ad ascoltare l'intervista. Amore. E ha sentito la sigla che hanno messo al papà, che bene, non se la merita. Quanti cani hai Giorgio? Guarda, attualmente 3. Nella mia storia ne ho avuti 5 o 6, però adesso ce ne abbiamo 3. Una piccoletta e poi 2 che è un pastore e una adottata che è una meticcia. E non si capisce bene che incrocio sia, però è deliziosa. Senti, da dove nasce la tua passione per gli animali? Perché io l'ho scoperto di recente, ma sembra che tu sei proprio anche molto attivo su per aiutare i cani. Sì, io sono, mi pregio di essere il presidente onorario della Lega per la difesa del cane. Bravo. Sono stato coinvolto nel tempo perché all'inizio, sai, come tutti mi piacevano gli animali, insomma, sono sempre stato, però non gli davo tutta questa importanza, cioè io, e quindi quando poi ho avuto l'occasione di prendermi una casa finalmente con un po' di giardino, ho detto, sai che ci sta bene, ti ricordi, te l'ho anche raccontato, non so se ci stanno bene i nani, di solito nei giardini sono i nani, oppure un cane, oppure i cani. Vabbè, forse meglio dei nani, forse meglio un cane. Hanno vinto i cani, mi sono preso questo pastore tedesco, ma ti ripeto, per me era, non lo so, perché c'era un giardino, quindi era una specie di, no, di sembrava quasi che fosse necessario ci fosse un cane. E ho preso Zeus, il pastore tedesco, e lì questo cane mi ha veramente aperto un mondo, ha cominciato a mancarmi, vedevo l'ora di rivederlo, insomma, e lì ho capito che c'era qualcosa in più rispetto ai cani, che andava un pochino più nel profondo. È vero che come il ritorno a casa è veramente unico e speciale quando c'hai quelle feste là, cioè, ma manco tuo padre e tua madre ti fanno quella festa lì ormai quando torni, perché tutto diventa abitudine. Invece loro, io per esempio vedo con la piccina, no? Quelli grandi lo stesso, però la piccina per esempio, se io la lascio in casa mezz'ora da sola, quando rientro è come se fosse stato via un anno. Amore. Quindi io non credo che ci sia una cosa paragonabile. In più loro non sanno dove sono andato, cosa ho fatto, chi sono, potrei essere un barbone, un re, un santo, gli animali diciamo sempre sono dei grandi insegnanti di accettazione incondizionata, cioè che tu sia ricco, povero, basso, grasso, delinquente. No, ma poi ti insegnano molto, io ho letto il tuo libro, quindi tu hai scritto ovviamente, figurati, quindi ho capito insomma dalle cose che dici, mi sembra di averne dedotto che comunque i cani ci insegnano molto. Esatto. Noi dobbiamo imparare, no? Più che insegnare noi a loro, dobbiamo, esatto, prima imparare a capire loro e a capire i loro insegnamenti, che cosa ci vogliono comunicare, e poi al limite comunicare noi. Questa è una cosa che si acquisisce però quando li hai, eh? Quindi quello che non ha mai avuto un cane difficilmente può capire. Adesso noi stiamo cercando assieme, abbiamo parlato con il capo del corpo forestale, perché giustamente lui diceva non esiste un numero verde per chiamare quando, certo, uno vede cani maltrattati. Uniamoci noi tutti che abbiamo questa sensibilità verso i cani in modo particolare, ma verso tutti gli animali, perché secondo me è una cosa che serve, utile, sai come c'è il telefono azzurro per i bambini, perché è vero, perché se tu trovi per esempio, come può capitare alle volte, un cane per strada che magari ha preso una botta da una macchina, ha avuto un incidente, ha lasciato un sul, non sai di chiamare. Sì. Adesso per fortuna c'è Facebook, sì, quindi magari il social network aiuta tantissimo, no? Però non, cioè, per esempio noi abbiamo con la Lega Nazionale per la Difesa del Cane, abbiamo istituito un'ambulanza per i cani, no? Perché non ci sono in tutte le città, sono poche le città che possono contare su un pronto soccorso per i cani. Bello questo. Preso un'ambulanza, l'abbiamo attrezzata col soccorso veterinario, eccetera. Ma dove Giorgio? Per esempio adesso non ricordo dove l'hanno, per esempio a Milano c'è, a Verona c'è, insomma in diverse parti d'Italia comincia a esserci, ma è una cosa ovviamente che viene fatta dai volontari, fatta da persone che sono vicine, da sponsor, eccetera. Certo. Ecco, dovrebbe essere una cosa che dovrebbe essere più a largo spettro. Senti, intanto ti ringrazio, posso chiederti che cosa stai facendo, quando, dove, perché ti rivedremo da qualche parte? Se hai un'oretta di tempo, sai quando le cose vanno, alle volte succede che passa un anno che non fai niente, quell'anno là, e l'anno dopo si sommano un sacco di cose. Adesso sto facendo la promozione per un film, quello di Mimmo Callopresti, a fine novembre, il mio primo film drammatico. Ti verrò a vedere sicuramente. E poi sto scrivendo un film mio, e poi lo spettacolo teatrale nuovo che stiamo affrontando, perché ogni anno poi mi piace andare a incontrare il pubblico, una cosa che mi manca sempre. Bene. E quindi per me il contatto col pubblico è importante. Allora ti possiamo venire a vedere a teatro in uscita nel prossimo film casa, ti dobbiamo venire a trovare, dobbiamo parlare di casa mia, certo, noi ti dobbiamo trovare, esatto, qualcosa organizziamo. Senti, grazie mille intanto. Grazie Giorgio Panariello, un abbraccio grande. Un bacione, buon lavoro, grazie per quello che state facendo. Anche grazie. A te, ciao. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Ed eccoci su Radio 24. Dunque, parliamo. Non abbiamo ancora detto la mail oggi. Chiedimi se sono felice, @radio24.it. Grande! Perché mi guardate, solitamente vi do la mia mail. Scriveteci, commentate, attaccateci, protestate su questa nostra nuova. Abbiamo voglia di avere delle persone che così ci attaccano, ci dicono la loro. No, ma a parte gli scherzi, anche per avere un minimo di contraddittorio. Piace, non è che ci nascondiamo. Adesso poi io lo so che c'ho sempre ragione, più io di Vaira, ovviamente. Però voglio dire, sono aperta a sentire le critiche. Ma è vero. E tu che ridi? No, sì, non è una battuta, io cioè, so di aver sempre ragione. Esatto. Lo so. Cosa stai dicendo? Non hai sempre ragione, va bene. Stai zitta, Sandra. Io ho sempre ragione. Sì, certo. Poco fa vi voglio dire soltanto che mandava SMS mentre stavamo lavorando qua. Vabbè, parliamo di cose serie, Allora, abbiamo una notizia, una ragazza di 19 anni, cieca, non vedente, accompagnata dal suo cane da guida, e sappiamo quanto sia importante un cane da guida per un non vedente, perché gli consente di andare ovunque, è stata cacciata da un ristorante. Avantissimi, sono di Liverpool, questo è un ristorante di Liverpool, il ristorante si chiama Ye Rah Thai, e quindi se andate a Liverpool sicuramente non andate in questo ristorante qui, così facciamo vedere un po'. E quindi che ne pensa lei, Celentano, di questa ma cosa vuoi dirgli a questa gente qui che c'ha una ghianda al posto del cervello? Voglio dire, adesso io capisco che uno dice non voglio far entrare i cani, c'è una scelta, chi vuole che entrino, chi non, dovrebbero entrare ovunque per quanto mi riguarda, ma se uno è non vedente ovviamente, voglio dire, è come che poi fra l'altro credo che ci sia una legge che li tuteli i non vedenti, quelli che hanno i cani perché soffrono di crisi epilettiche, io quelli che hanno i cani, sì. Certo. Mi auguro, no, forse questo diretto, perché la mamma di questa ragazza qua dice: mia figlia ha visitato il ristorante con un amico e stava ordinando la Coca-Cola quando è arrivato il direttore e ha detto loro di uscire perché gli animali non sono detto. Immagina il direttore, io gli avrei detto: direttore, allora esca. Direttore, vi prego di accomodarvi fuori perché gli animali non sono ammessi. Quindi esca, che lei è più animale di loro. Detto ciò, io sono una grande fan di Rita Pavone. Grazie. Ci sono cresciuta con le canzoni di Rita Pavone. Ti piace la pappa col pomodoro? Buona! Da morire, poi buonissima. Semplicissima e buonissima, tipo piatto toscano. Che io adoro, mi portavo via le cofane intere dei gelati con la pappa al pomodoro. Ma quindi il ristorante, il pappa col pomodoro, se magna qua. Allora io ti voglio dire che a Milano si sta per aprire un ristorante dove i gatti... Mi è sembrato di vedere un gatto. Vedi? I gatti sono presenti, accolgono gli ospiti. A Torino è già funzionante. Fantastico. Al telefono abbiamo Angelo Di Bari, che è proprio il proprietario del Neco Caffè, che a Torino appunto sta incuriosendo la gente. Pronto? Pronto, ciao a tutti. Angelo, ciao, buongiorno, un bel buongiorno. Nome, devo dire. Tra certo. Ma sei di Bari o no? Ma mio papà è di Bari, sì. Ah, vedi. Sono veneto. Perché anche Angelo qui va era di Bari. Ma potevate parlare di Bari. I baresi sono creativi, oh, no. Che cos'è a dire? Sono anch'io. Allora, raccontaci un po' di questo tuo ristorante a Torino. Cioè, che cosa accade? Io entro in questo ristorante, voglio mangiare, che cosa mi ritrovo intorno? Allora, in pratica il Neco nasce da un sogno che coltivavo da parecchio tempo, cioè quello di riuscire a conciliare il lavoro con il fatto anche di stare bene con se stessi. E quindi ho saputo dell'esistenza dei Neco Caffè grazie al mio lavoro. Io sono un DJ e quindi mettendo i dischi in giro, in particolare a Vienna nel 2012, mi sono imbattuto assolutamente per caso nel primo cat caffè europeo. Ma dai. Sì, l'idea mi ha affascinato tantissimo. Ho pensato che il Neco potesse essere il punto di arrivo del progetto che io e altri volontari stiamo portando avanti attraverso la Onlus Animalista Neco, della quale sono anche presidente. Bravo. E si occupava e continua a occuparsi di fare, ad esempio, la tramite per quanto riguarda adozioni, stalli di gatti abbandonati. Ma qua abbiamo diverse cose di cui parlare. 3 minuti non bastano. Cioè, Angelo Di Bari, dobbiamo richiamarlo. Assolutamente sì, perché ci devi raccontare tutto. Però tornando sul punto, allora io entro nel ristorante, cosa mi trovo? Quanti gatti? Ci sono dei gatti, no? Ho capito bene. Adesso il numero di gatti è arrivato a 9, in quest'estate sono aumentati di 2. I gatti. Da dove arrivano questi gatti? Sono gatti abbandonati? Sì, i gatti sono tutti praticamente i gatti che seguivamo ancora prima di aprire il locale, quindi sono gatti che vengono da colonie feline, oppure qualcuno, un paio abbandonati, altri da adozioni finite male. Li abbiamo accolti tutti quanti, cioè erano tutti a parte due che appena sono arrivati a casa, Matisse e Lotte, si sono sentiti già a casa loro, vengono tutti da situazioni un po' problematiche. E infatti chi ci ha messo alcune settimane per ambientarsi, chi qualche mese, chi addirittura quasi un anno come Max, però la soddisfazione nostra è quella che adesso sono tutti i gatti di casa. Senti, ma è la gente che viene lì a mangiare, che sta al tavolo ogni tanto, cosa fa? Uno mangia la pappa col pomodoro e il gatto ti sale sulle gambe. Allora fino a giugno era così, nel senso bisognava, chi mangiava doveva anche stare attento a fronteggiare gli assalti all'arma bianca dei gatti, sì. No? E magari i più distratti si vedevano anche sottrarre magari qualche cibo, esatto, dal piatto. Invece adesso abbiamo diviso il Neco in 3 sale, una che si chiama Risto Gatto, dove i gatti possono entrare ma solamente dall'alto dei percorsi sui muri. Ci sono circa 50 metri di percorsi a 4 metri d'altezza. Wow! Sì, infameggiati da tre ponti tibetani e da tre scale a chiocciola. Che io voglio andare a vedere questo ristorante. No, ma è bello perché c'è un arricchimento ambientale. Io ho visto dei gatti nascere e morire in appartamenti un po' sterili. Sì, alla fine staranno meglio da voi. E invece, sì, ma poi quello che la gente si chiede è: voi chiudete il locale, questi gatti che fine fanno? Ma i gatti, noi abbiamo creato un ambiente che è assolutamente in misura di gatto, per cui che il locale sia aperto, che il locale sia chiuso, i gatti sono completamente a loro agio, quindi di giorno socializzano con le persone. Noi a breve, tra l'altro, siamo molto attenti anche con il sociale, quindi a breve organizzeremo anche dei caffè Alzheimer in collaborazione con l'ASL locale, quindi ospitiamo anche delle associazioni che accompagnano delle persone con disabilità, facciamo incontri con Angelo, purtroppo noi ti dobbiamo fermare perché tutta questa roba ti avevamo risolvato. Facciamo una cosa, dici solo poi ti richiamiamo un'altra volta che ci spieghi bene. Volentieri. Dovete aprire a Milano però, mi hai detto tu, no? Sì, allora il caffè di Milano non è nostro, nel senso il nostro è un progetto che unisce il non profit con il commerciale in un modo abbastanza etico, e ci sono dei ragazzi che stanno interessando ad un'apertura di Milano, quindi in Eco Caffè sono una cosa abbastanza particolare. Dovremmo aprire probabilmente a Milano, a Bologna, a Pavia. Bene, bene. Bravi, bravi. Guarda, Angelo, veramente faremo un'altra chiacchiera più approfondita. Il gatto che sta bene, il gatto che fa bene. Ciao Angelo, grazie. Ciao a voi, grazie a voi. Ciao. Arrivederci a tutti da Rosita Celentano e Angelo Vairo su Sandra Mondaini. Radio 24, ciao.